ad alta voce. Daria De Florian legge Il diario di Anna Frank. Domenica 2 maggio 1943. A volte penso a come viviamo qui e per lo più giungo alla conclusione che, rispetto agli altri ebrei che non si sono nascosti, siamo come in paradiso. Ma dopo, quando tutto tornerà normale, mi chiederò come siamo potuti, per così dire, cadere tanto in basso, dato che a casa avevamo tutto così in ordine. Cadere in basso per quanto riguarda i comportamenti. Per esempio, da quando siamo qui, sulla tavola c'è una tela cerata che a causa dell'uso prolungato non si può proprio dire che sia delle più pulite. Io spesso tento di sistemarla un po', ma con uno straccetto per i piatti che è più buchi che altro. E che anche lui era nuovo molto prima che ci nascondessimo. Posso metterci tutto l'olio di gomito che voglio, ma la tovaglia non migliora. I Van Dan dormono già da tutto l'inverno su panni di flanella che qui non si possono lavare perché il sapone in polvere che compriamo con i buoni è troppo poco e inoltre di pessima qualità. Papà va in giro con i pantaloni sfilacciati e anche la cravatta si vede che è consumata. Il busto della mamma oggi si è strappato per l'usura e non può più essere aggiustato, mentre Margot porta un reggiseno troppo piccolo di 2 misure. Mamma e Margot per tutto l'inverno hanno tirato avanti con 3 camiciole in 2 e le mie sono così piccole che non mi coprono neanche la pancia. Certo, sono tutte cose su cui si può sorvolare, ma a volte mi chiedo, come faremo? Noi che siamo abituati a usare cose consumate, dalle mie mutande al pennello da barba di papà, a tornare al nostro stile di vita di prima della guerra. Domenica 2 maggio 1943. Opinioni sulla guerra nell'alloggio segreto. Signor Van Dan, secondo l'opinione di tutti, questo rispettabile signore sa molto di politica, però dice che dovremo stare qui ancora fino alla fine del 43. È molto, ma dovremo sopportare. Ma chi ci assicura che questa guerra, che a tutti non porta altro che danni e dispiaceri, poi sarà finita? E chi può assicurarci che a noi e ai nostri protettori nel frattempo non accada qualcosa? Nessuno. Proprio per questo viviamo sempre nell'angoscia. Nell'angoscia dell'attesa e della speranza, ma anche della paura. Quando in casa o fuori si sente qualche rumore, quando sparano o quando sul giornale vengono annunciate nuove comunicazioni, perché non è escluso che qualcuno dei nostri protettori un giorno non debba lui stesso venire a nascondersi qui. Il verbo nascondersi è diventato molto comune. Quanti si saranno nascosti? In assoluto non molti, ovviamente, ma dopo ci sorprenderemo a scoprire quanta buona gente c'è nei Paesi Bassi che ha accolto ebrei e anche cristiani in fuga con o senza soldi. Ed è anche incredibile sentire quante persone hanno documenti falsi. Signora Van Dan, quando questa leggiadra, solo ai propri occhi, signora, ha sentito che non è più difficile come una volta procurarsi documenti falsi, ha proposto che tutti ce li procurassimo, come se fosse una cosa da nulla e se i soldi di papà e del signor Van Dan si moltiplicassero da soli. Spesso, mentre la signora Van Dan dice le cose più assurde, Putti salta su, ed è logico, perché un giorno Kerli dici, Putti e Kerli erano i nomignoli che i signori Van Dan usavano tra loro nell'intimità, Kerli dice, poi mi farò battezzare. E il giorno dopo, ho sempre desiderato andare a Gerusalemme, perché mi sento a mio agio solo tra gli ebrei. Pim è un grande ottimista, ma sempre un motivo per esserlo. Il signor Dussel pensa le cose più strampalate. Quando qualcuno vuole contraddire Sua Altezza, finisce male. A casa del signor Alfred Dussel, secondo me, la regola è che tutto quello che dice lui viene preso come oro colato, ma ad Anne Frank la cosa non sfagiola affatto. Quello che gli altri abitanti dell'alloggio pensano della guerra non è interessante. Solo questi quattro contano in politica, in verità solo due, ma Madama Van Dan e Dussel si considerano parte del gruppo. Martedì 18 maggio 1943. Karakit. Ho assistito a un pesante combattimento aereo tra tedeschi e inglesi. Purtroppo un paio di alleati sono dovuti saltare dall'apparecchio in fiamme. Il nostro lattaio, che abita nel Half Veg, ha visto quattro canadesi seduti sulla strada. Uno di loro parlava perfettamente l'olandese. Questi chiese al lattaio un fiammifero per accendersi la sigaretta e gli raccontò che l'apparecchio aveva un equipaggio di 6 persone. Il pilota era morto bruciato e il quinto uomo si era nascosto da qualche parte. La Grune Polizei andò a prendere quei 4 ragazzi sani. Come si fa, dopo un volo così spettacolare col paracadute, ad avere ancora tanta presenza di spirito? Nonostante faccia decisamente caldo, dobbiamo accendere la stufa ogni giorno per bruciare i residui delle verdure e gli altri rifiuti. Non possiamo mettere niente nei cestini delle immondizie, perché dobbiamo sempre tenere conto del magazziniere. Basta così poco a tradirti. Tutti gli studenti devono firmare un modulo dichiarando di simpatizzare con tutti i tedeschi ed essere ben disposti nei confronti del nuovo ordine. L'80% si è rifiutato di rinnegare la propria coscienza e le proprie convinzioni, e le conseguenze non si sono fatte attendere. Tutti gli studenti che non hanno firmato vengono mandati in un campo di lavoro in Germania. Che cosa resterà della gioventù di questo paese se tutti devono andare a lavorare come bestie in Germania? A causa degli spari troppo forti, la mamma questa notte ha dovuto chiudere la finestra. Io ero nel letto di Pim. D'un tratto sopra di noi la signora balza dal letto come se Muschi l'avesse morsa. Segue un duro colpo. Ho avuto l'impressione che accanto al mio letto fosse caduta una bomba incendiaria. «Luce! Luce!» strillai. Pim ha acceso la lampada. Mi aspettavo che la stanza si mettesse a bruciare da un momento all'altro. Non successe niente. Siamo corsi tutti di sopra per vedere che cosa fosse accaduto. Il signore e la signora avevano visto un bagliore rosa dalla finestra aperta. Lui aveva creduto ci fosse un incendio nelle vicinanze e lei che si fosse incendiata la casa. Al colpo che seguì, la cara signora era già in piedi tutta tremante. Dussel è rimasto di sopra a fumarsi una sigaretta e noi siamo tornati a letto. Non era passato un quarto d'ora che gli spari sono ripresi. La signora si è alzata di nuovo ed è scesa nella stanza di Dussel per trovare la quiete che accanto a suo marito non le era concessa. Dussel l'ha accolta con queste parole: «Vieni qui a letto con me, bambina». Noi siamo scoppiati a ridere. Non ci importava più delle cannonate. La paura era passata. Tua Anne. Martedì 15 giugno 1943. Cara Kitty, sono successe un sacco di cose, ma ho sempre l'impressione di annoiarti con tutte queste storie e sarai contenta quando non ricevi tante lettere. Sarò breve. Il signor Vosquil non ha poi avuto quell'operazione allo stomaco. Quando era sul tavolo operatorio con la pancia aperta, i dottori hanno visto che aveva un cancro in stadio talmente avanzato che non si poteva più operarlo. Così gli hanno ricucito la pancia, lo hanno tenuto a letto per 3 settimane facendolo mangiare bene e poi lo hanno mandato a casa. Però hanno fatto uno sbaglio imperdonabile, e cioè hanno detto: quel poveretto che cos'ha? Ora non è più in grado di lavorare e se ne sta a casa circondato dai suoi 8 figli a pensare alla morte. Mi fa una pena tremenda e mi dispiace davvero che non possiamo uscire, altrimenti andrei a trovarlo spesso per distrarlo. Per noi è molto grave che il signor Vosquil non ci tenga più al corrente di quello che accade e si sente nel magazzino. Era il nostro più grande aiuto e sostegno qui, in questo nascondiglio. Ci manca molto. La prossima settimana ci tocca consegnare la radio. Kleiman ha in casa un piccolo apparecchio non dichiarato che ci darà al posto del nostro grande Philips. È un vero peccato che dobbiamo consegnare questa bella radio. Ma una casa in cui ci sono clandestini non deve tirarsi addosso l'attenzione delle autorità per nessun motivo. La radio piccola, ovviamente, la terremo di sopra. Ebrei clandestini, soldi clandestini e perché no, anche una radio clandestina. Tutti cercano di consegnare una radio vecchia invece della propria fonte di coraggio. Del resto è vero. Quando le notizie dall'esterno continuano a peggiorare, la radio, con la sua voce miracolosa, ti aiuta a non perderti d'animo e ti fa ripetere ogni volta: su con la vita, verranno tempi migliori. Tua Anne. Domenica 11 luglio 1943. Carissima Kitty, per tornare ancora una volta all'argomento dell'educazione, voglio dirti che mi do molto da fare per essere servizievole, gentile e simpatica, in modo che il diluvio di critiche si riduca a una pioggerella. È tremendamente difficile fare tanto la brava davanti a persone che non sopporto, tutta falsità. Però mi accorgo che ottengo molto di più se sono un po' ipocrita e abbandono la mia vecchia abitudine di dire sempre in faccia a tutti quello che penso, anche se nessuno chiede la mia opinione o la prende in considerazione. Ieri tutta la casa parlava solo degli occhi di Anne, perché la mamma aveva proposto di mandarmi dall'oculista con la signora Kleiman. All'idea mi tremavano un po' le gambe, perché non è una piccolezza. Per la strada, pensa, camminare per strada, neanche a pensarci. Prima ero spaventata a morte, poi contenta, ma non è così facile perché non tutte le autorità che dovevano dare l'approvazione erano d'accordo. Prima bisognava mettere sulla bilancia tutte le difficoltà e i rischi, anche se MIEP avrebbe voluto portarmi subito con sé senza attendere oltre. Ho preso dall'armadio il cappotto grigio, ma era talmente piccolo che era come se avessi addosso quello di una sorellina minore. Si è scucito l'orlo e i bottoni non si riescono più a chiudere. Sono proprio curiosa di vedere come va a finire. Ma non penso che la cosa si farà, perché nel frattempo gli inglesi sono sbarcati in Sicilia e papà pensa di nuovo a una rapida fine. Beppe dà da sbrigare un sacco di lavoro d'ufficio a Margot e a me. Per noi è importante, e anche per lei, visto che le diamo davvero una mano. Chiunque sa inventariare la corrispondenza e aggiornare un registro delle vendite, ma noi siamo particolarmente precise. Miep lavora come un asino da soma. Quasi ogni giorno trova della verdura da qualche parte e la porta con la bicicletta dentro grandi borse della spesa. Ogni sabato è lei che prende 5 libri in biblioteca. Noi aspettiamo sempre con ansia il sabato perché arrivano i libri, proprio come dei bambini piccoli che ricevono un regalo. La gente comune non sa quanto siano importanti i libri per uno che sta nascosto. La lettura, lo studio e la radio sono gli unici passatempi che abbiamo. Tua Anne. Lunedì 19 luglio 1943. Cara Kitty, domenica Amsterdam Nord ha subito un pesante bombardamento. La distruzione deve essere tremenda, intere strade devastate. E passerà ancora molto tempo prima che tutte le persone siano recuperate. Finora ci sono 200 morti e moltissimi feriti. Gli ospedali sono pieni quasi a scoppiare. Si parla di bambini che cercano i genitori morti tra le macerie fumanti. Mi vengono i brividi se penso al cupo frastuono in lontananza che ci ha annunciato la catastrofe. Venerdì 23 luglio 1943. Beppe è riuscita a trovare qualche quaderno, soprattutto registri e quaderni grandi che possono essere utili alla mia sorella ragioniera. Altri quaderni si trovano, ma non chiedere quali e fino a quando. Attualmente sui quaderni c'è stampato ottenibili senza tessera. È proprio come tutte le altre cose libere, sono di qualità infima. Un quaderno consiste di 12 paginette grigie, storte e con le righe strette. Margot sta pensando se seguire un corso di bella grafia e io l'ho incoraggiata. Mamma non vuole in nessun caso che partecipi anch'io per via degli occhi. Secondo me è assurdo. Se faccio quello o qualcos'altro, tanto è lo stesso. Dato che non hai mai vissuto una guerra, Kitty, e nonostante le mie lettere sai ancora molto poco di quello che significa vivere nascosti, tanto per divertirti ti racconterò quali sono i desideri di ognuno di noi una volta che usciremo. Margot e il signor Van Damme desiderano più di ogni altra cosa immergersi in un bagno caldo e restarci per più di mezz'ora. La signora Van Damme non vede l'ora di mangiare paste. Dussel pensa solo alla sua Charlotte. Mamma ha la sua tazza di caffè. Papà vuole andare dal signor Vosquil. Peter in città, al cinema. E io, per la felicità, non saprei proprio da dove cominciare. Desidero più di ogni altra cosa avere una casa mia, potermi muovere liberamente ed essere di nuovo seguita nel lavoro, quindi tornare a scuola. Beppe ci ha offerto della frutta. Costa un piccolo patrimonio. Uva a 5 fiorini il chilo. Uva spina a 70 centesimi mezzo chilo. Una pesca a 50 centesimi. Meloni un fiorino e 50. E poi ogni sera stampano sul giornale a caratteri cubitali. Aumentare i prezzi è da usurai. Lunedì 26 luglio 1943. Carissima Kitty, ieri è stata una giornata molto movimentata e siamo ancora agitati. In verità ti chiederai se qui ci sia qualche giorno tranquillo. Di mattina a colazione c'è stato il primo preallarme, ma non è grave, significa soltanto che sulla costa passano aerei. Dopo colazione mi sono riposata per un'oretta perché avevo un forte mal di testa e poi sono scesa in ufficio. Erano circa le 2. Alle 2:30 Margot aveva finito di lavorare. Non ha fatto in tempo a mettere via tutto che suonavano di nuovo le sirene e siamo tornate di sopra. Per fortuna, perché non eravamo salite da 5 minuti che hanno cominciato a sparare forte, tanto che siamo andate a metterci in corridoio. La casa tremava tutta. Cadevano le bombe. Io stringevo forte la mia valigetta, più per avere qualcosa a cui aggrapparmi che perché pensassi di fuggire veramente, visto che comunque non ce ne possiamo andare e per strada saremmo in pericolo di vita, proprio come sotto un bombardamento. Dopo mezz'ora gli aerei si sono diradati, ma in casa la tensione è aumentata. Peter è sceso dalla sua vedetta in soffitta. Dussel era nell'ufficio sulla strada. La signora si sentiva sicura nello studio privato. Il signor Van Damme era stato a guardare dal sottotetto e anche noi del corridoio ci siamo sparpagliati per vedere le colonne di fumo che salivano da lei. Ben presto dappertutto c'era odore di bruciato e fuori sembrava che ci fosse una fitta nebbia. Benché un incendio così grande non sia uno spettacolo gradevole, eravamo contenti che il tumulto fosse passato e ognuno tornò alle proprie attività. Di sera, durante la cena, allarme aereo. C'era una buona cenetta, ma il solo rumore mi è passato l'appetito. Non è successo nulla e 3 quarti d'ora dopo il pericolo era cessato. Stavamo per lavare i piatti. Allarme aereo. Spari, un sacco di aerei. Oh no, 2 volte in un solo giorno è davvero troppo, abbiamo pensato tutti, ma non è servito a niente. Piovevano di nuovo bombe, questa volta dall'altro lato, a quanto dicono gli inglesi sopra Schiphol. Gli aerei si buttavano in picchiata, risalivano, si sentivano i sibili. Ogni momento pensavo, ecco, ci siamo, cade. Ti posso assicurare che alle 9, quando sono andata a letto, non avevo ancora le ginocchia ferme. Mezzanotte in punto mi sveglio. Aerei! Dussel si stava svestendo, ma io ho fatto finta di niente e al primo sparo sono saltata giù dal letto sveglia come un grillo. Fino all'1 ero di là, all'1:30 di nuovo a letto. Alle 2 di nuovo da papà e gli aerei continuavano a passare. Non sparavano più e ho potuto tornarmene a casa. Mi sono addormentata alle 2:30. Ore 7. Mi sveglio di soprassalto. Vandana era da papà. Ladri, penso subito. Sento Van Damme dire tutto. E penso che sia stato rubato tutto. E invece no. Era una notizia splendida. La più bella da mesi, forse la più bella di tutta la guerra. Mussolini si è ritirato. Il re e imperatore d'Italia ha preso il potere. Esultiamo. Dopo tutta la paura di ieri, finalmente qualcosa di positivo e speranza. Speranza che finisca. Speranza di pace. Kugler è venuto a dirci che Fokker è gravemente danneggiato. Intanto stamattina ci sono stati nuovi allarmi con passaggio di aerei e ancora un preallarme. Questi allarmi mi soffocano. Non ho riposato bene e non ho voglia di lavorare, ma le notizie dall'Italia ci tengono svegli e la speranza che a fine anno... Tua Anne. Daria De Florian ha letto Il diario di Anna Frank, edizione definitiva a cura di Miriam Pressler, traduzione di Laura Pignatti, a cura di Anna Antonelli, Fabiana Carobolante, Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio. Per scaricare e riascoltare il programma radio3.rai.it.